testo era quello che descrive la differenza tra la pratica in assemblea e la pratica in seminariale. Questo era un po' il centro attorno al quale poi venivano dette tantissime altre cose. Non so se l'avete letto di questo testo. Comunque, dico il cuore di questo testo è che è diviso, mostra due tipi di pratiche: la pratica in assemblea di un sapere scambiato oralmente e di un pensiero scambiato oralmente, e una pratica invece di una dimensione come questa, però non dove c'è una docente che parla, che è stata indicata, una situazione di vero scambio, spero che anche oggi sia vero scambio, non voglio dire, però una situazione vostra di riflessione in presenza. Allora, l'intervento che faccio oggi si riallaccia all'impostazione di fondo di questo testo, perché è il mio tentativo, io ho scritto un libro su questo che significa pensare in presenza, che lavora sull'aspetto delle modalità e le pratiche di che cosa succede quando si pensa con gli altri, non in una dimensione assembleare, ma in una dimensione invece di scambio. E il tentativo appunto, e anche la modalità che adopero oggi per impostare la cosa, è di valorizzare questi momenti di scambio in presenza non assembleare, non che poi la struttura assembleare non sia necessaria, ci sono anche momenti assembleari, però un altro tipo di pratica di pensiero, ci sono diversi tipi di pratiche di pensiero. Anche quello della scrittura è una pratica di pensiero in solitudine, oppure collettiva con il vostro documento, diciamo. Però pensarlo in solitudine, a volte, per esempio, più le donne che gli uomini piace, perché in qualche modo liberano l'anima dalle troppe relazioni che una si porta dietro, e scrivere in solitudine è un momento per sì, avere degli interlocutori, però avere anche il silenzio, insomma, è un tipo di pratica di scrittura che donne e uomini amano, sicuramente le donne sospendono un attimo le forti relazioni che ognuna si porta dentro di noi e avere un momento di silenzio con me. Quindi di pratiche di pensiero ce ne sono molte. La pratica di pensiero legata all'essere in presenza, nella forma non assembleare, ma quella proprio più circolare, io lo valorizzo moltissimo perché, a mio modo di vedere, quando si avvia un movimento rivoluzionario, parte sempre da momenti di questo tipo, cioè da momenti di scambio in presenza di tipo relazionale. Pensate, per esempio, alla rivoluzione francese, tutti noi abbiamo studiato su libri di storia, che parte dei club, degli elementi forti di modificazione delle categorie di pensiero che vengono discusse in realtà nei momenti di scambio orale e che portano anche le assemblee, portano anche la struttura della dichiarazione dei diritti e così via, però i momenti di incontro in presenza e le forme dell'oralità di incontro in presenza sono quelli che poi avviano a delle trasformazioni radicali di pensiero, perché i momenti assembleari sono meno di pensiero, sono più un altro tipo di scambio su quale oggi non mi voglio fermare, diciamo. Dico la rivoluzione francese, però per esempio c'è stato anche il movimento delle donne che è partito con i gruppi di autocoscienza, che sono gruppi di riflessione in presenza di tipo circolare, e così via, per cui anche i consigli dei soviet all'inizio sono stati questi, cioè la rivoluzione è avvenuta come elementi sorgivi di tensione, di pensiero, di ragionamento in gruppi piccoli che erano i consigli, diciamo, che prendevano la figura dei consigli. Quindi nei momenti veramente di rottura, dove c'è un evento discontinuo, l'elemento del discutere assieme in presenza è sempre quello che sposta, è sorgivo, ha una notevole energia e sposta il piano del discorso, cioè il piano del discorso attivamente, e porta ad una notevole trasformazione. In questo senso io lo valorizzo, per me è proprio il centro di modificazione. Poi naturalmente c'è l'assemblea, ci sono le pratiche di scrittura collettiva, pratiche di scrittura singolare, ma sono altri tipi di pratiche meno sorgive, ecco, diciamo, e l'elemento costruttivo mi sembra proprio questo. Per me personalmente mi ha sempre colpito una delle pratiche del 1600-1700 in Francia, i salotti delle signore delle francesi del 600-700, che hanno cambiato la civiltà della conversazione e la lingua francese. In genere la grandezza della lingua francese deriva dagli elementi di discussione in presenza di queste signore che invitavano anche gli amici filosofi, per esempio la Rochefoucauld, la Bruyère, e che creavano un elemento di discussione di in genere i temi erano la ragione e i sentimenti, che erano i temi che stavano molto a cuore sia le donne che gli uomini che partecipavano, e c'era un elemento di accoglimento del discorso dell'altro e di circolazione, diciamo, dove l'esserci in presenza, l'avere qualcosa da dire, ascoltare gli altri, è stato un elemento di modificazione dell'intera civiltà. Era stata Maria De Medici che aveva invitato queste signore a ad organizzare questi salotti, perché la cultura francese si era molto abbassata nel 1600, e questa è stata una grande modificazione anche proprio della lingua francese, della cultura della lingua francese, che ha lasciato una grandissima impronta con me. Ecco, per me personalmente anche questo tipo di riferimento è importante. Nel vostro testo, nel testo di quelli che hanno scritto il testo, che non siete tutti, c'è scritto, avete scritto che questi incontri e il movimento politico dell'onda studentesco è nato dalla venire meno della fiducia, per cui a un certo punto studentesse e studenti hanno deciso che non si sentivano più rappresentati da quelle che erano istituzioni universitarie e così via. E da una riscoperta della fiducia all'interno invece di uno scambio tra di voi, tra studenti, tra studentesse e studenti. E quindi il testo punta molto sulla fiducia. Questo volevo dirvi a chi ha scritto il testo, ma penso che sia anche un elemento che avete discusso in modo più ampio. Questa della fiducia è vero, è il tessuto che crea la possibilità di parlare in presenza. Se io non mi fidassi qua e non avessi avuto delle mediazioni che mi hanno portato qua di cui mi fido, sentirei il tuo disagio, e ci sono stati dei passaggi di fiducia che mi hanno portato qua, diciamo, come. Però tenete conto che la fiducia è qualcosa che permette il tessuto di discussione sorgiva, di elementi di modificazione, però allo stesso tempo c'è anche l'aggressività. Non è che la fiducia elimina l'aggressività e il conflitto. Nel testo questo non viene messo. Anch'io quando ho lavorato su questo non ho lavorato sul fatto che poi non è che le cose si spartiscono aggressività da una parte e fiducia e armonia dall'altra. In fin dei conti la fiducia permette che l'aggressività diventi creativa, invece che essere distruttiva, che l'aggressività diventi qualcosa che permette di entrare in un conflitto creativo. Quindi poi il consiglio per chi ha scritto il testo era di ragionare anche sul fatto che penso che anche in tutti voi ci siano momenti di aggressività, di conflitto, che in realtà è un arricchimento della discussione se c'è fiducia. Cioè la fiducia è quel tessuto un po' impalpabile, invisibile, che permette anche un intervento aggressivo di rottura che poi venga in qualche modo ripreso e rilanciato come un elemento che tutta l'energia e anche l'ansia dell'aggressività di dover dire per forza una cosa perché altrimenti c'è qualcosa che non va in una riunione, come e di riprenderlo e di rilanciarlo come un elemento positivo, quindi di che l'aggressività in qualche modo diventa un elemento creativo se c'è fiducia, come se la fiducia è un elemento importante nel discorso, e nel pensare con gli altri accogliere l'aggressività come elemento creativo è come una specie di esercizio, perché invece di fronte all'aggressività si interrompe e non va più avanti. Invece accogliere l'aggressività come un elemento di arricchimento è un es- non facile, però che in qualche modo può aiutare a spostare il discorso, perché chi interviene in modo aggressivo in realtà gli sta a cuore veramente una cosa, cioè ha veramente a cuore qualche cosa di preciso, quindi accoglierlo è elemento fondamentale. Come è elemento fondamentale stare molto attenti a quegli interventi dove, questo per esperienza mia, soprattutto le donne, più le donne che gli uomini hanno come sfide, di identificarsi con la propria posizione. Identificarsi con la propria posizione significa che, siccome per una donna è più difficile intervenire che per un uomo in genere, allora una si espone con la propria posizione e quindi ci si affeziona anche alla propria posizione, perché è stato difficile fare un intervento. E questa identificazione affettiva alla propria posizione, per la quale si interviene disvelandosi in qualche modo, svelandosi agli altri, e c'è questa difficoltà, va pensata dagli altri, va accolta, e chi fa un intervento identificandosi, sapendo che si sta identificando, cioè tutti questi sono elementi di esercizio, di pratiche per avere, come dire, un esercizio alla Foucault, di un buon esercizio di discussione di una situazione, cioè sapere questi elementi com'è. Pensare con gli altri è fatto di tantissimi elementi, tra i quali quelli che sto ponendo, che sono tutti elementi di pratica che vengono messi in gioco. Io in questo libro, appunto, Pensare in presenza, ho usato una immagine per aiutarmi, e ho usato l'immagine di un gruppo jazz per pensare il ragionare assieme. Perché ho pensato il ragionare in un gruppo jazz? Pensate che i suonatori si accordano sul tono, nel senso che prima di suonare c'è un accordo sul tono, e il tono in qualche modo va, è il tono di quell'incontro, diciamo. E questa è una modalità. Un'altra modalità di chi suona jazz è il fatto che la gente interviene suonando, ascoltando la frase musicale detta dall'altro, e può riprendere e giocarci sulla frase musicale detta dall'altro, e può anche inserire una nuova frase musicale, no? Cioè può inserire una nuova frase musicale rispetto alla quale c'è la richiesta di stare fedeli alla frase musicale che si vuole mettere in campo, cioè perché c'è un po' l'idea di andare a una forma di imitazione delle frasi musicali degli altri. Però ci sono due modalità: una è quella di ascoltare le frasi musicali dette dagli altri e giocarci, per esempio, no? Come, cioè riprendere e giocarci. L'altra è, se uno ha da mettere in campo la propria frase musicale, di restare fedele in qualche modo per un po' di tempo quella frase musicale, avere molto ascolto di quando intervenire, perché siccome non c'è il momento dell'intervento, intervenire, sapere quando intervenire diventa una forma di sapienza dell'intervento, no? Cioè una forma di sapienza dell'intervento. E poi l'altro aspetto che avviene per chi suona in gruppo jazz, o delle amiche che suonano in gruppo jazz, comunque anche ne parlano alcuni testi di questo, è che alla fine, quando una ha molta pratica di questo suonare con altri, non si prende più sul serio. Non si prende più sul serio, non nel senso che svaluta quello che sta facendo, ovviamente, ma in qualche modo sa che la frase musicale che mette in campo è qualcosa che non riguarda solo sé, riguarda il buon andamento della discussione. Cioè c'è un buon andamento della discussione, un buon andamento della jam session in questo caso, e che quindi quello che chi suona mette in campo è qualcosa che in qualche forma fa parte di un disegno più ampio, cioè tutto un disegno più ampio che viene messo, cioè la propria frase musicale, il proprio gioco musicale è qualcosa che in qualche modo contribuisce a un disegno di cui non è l'autore, nessuno è l'autore poi dell'intero pezzo suonato. in prima persona dell'intero pezzo suonato, fa sì che chi suona con gli altri ha leggerezza e non si prende troppo sul serio perché non è l'autore, sa che ne va di qualche cosa che è un vero percorso che si fa insieme agli altri, è un elemento di percorso assieme agli altri. Ecco, questa leggerezza, questo non prendersi sul serio, porta nella pratica di suonare, di una modalità che è una modalità appunto molto attenta a portare il proprio discorso, a giocare, a e però sapendo che ne va di più di noi personalmente, cioè ne va di più di quello che io sono come. Allora penso che da questa immagine che ho operato del jazz avrete capito molte cose rispetto alla discutere assieme agli altri, nel senso che ci sono tantissime cose che nella discussione con altri, quando è questa discussione per cui ci mettiamo a discutere con gli altri perché sentiamo che ne abbiamo bisogno, c'è necessità di farlo e c'è un di più nella discussione con gli altri perché viene fuori un sapere che è molto più ampio di quello che noi avremmo potuto elaborare per conto nostro, c'è il senso dell'attenzione alla parola degli altri, che non è la nostra, ma che possiamo riprendere, giocare con la sua frase. Non è la nostra, ma possiamo riprenderla. Mantenere fede anche quello che noi vogliamo dire, però senza troppo identificarci con quello che vogliamo dire, nel senso che lo diciamo come contributo alla discussione comune, come qualcosa che serve perché in qualche modo ci sia una sfaccettatura delle questioni che ci stanno a cuore. Noi ci troviamo a discutere con gli altri perché qualcosa ci sta a cuore, quindi ci troviamo a farlo con una sfaccettatura di una complessità di situazione com'è. E quindi c'è questa modalità per cui c'è ascolto degli altri, non prendersi sul serio, leggerezza e allo stesso tempo sapere che il guadagno che trarremo dalla discussione comune fa sì che la discussione nessuno sia autore di quella discussione, ci sia un elemento di movimento della discussione di cui nessuno può dire sono io il proprietario di quello che è venuto fuori. Non c'è proprietà del discorso comune che emerge come. Il linguaggio quando parliamo che e discutiamo assieme che abbiamo è il linguaggio in comune, è quello che abbiamo in comune. È la lingua corrente, tenete conto che ogni volta che ci si trova a discutere assieme tutti i tecnicismi della lingua vengono meno perché i tecnicismi della lingua, cioè i saperi già codificati in certi campi, in qualche modo non ci reggono più perché altrimenti non ci troveremmo a pensare assieme. Cioè i tecnicismi della lingua sono già dei saperi codificati, sono saperi che in qualche modo hanno funzionato, però se noi sentiamo l'esigenza di trovarci assieme per discutere, vuol dire che quei tecnicismi della lingua in qualche modo non reggono più la situazione, perché sennò sarebbero già delle risposte, cioè una dimensione tecnica della lingua è un sapere accumulato che circola, a cui noi possiamo accedere, no? È come un intelletto comune a cui noi possiamo accedere. Però se noi ci troviamo a discutere assieme vuol dire che qualche cosa si è inceppato, se no noi non ci troviamo mai a discutere assieme per ripetere le cose già dette, non ci interessa. Ci troviamo a discutere assieme perché c'è un momento di questione, di problema, di scollamento delle parole con le cose, cioè le parole che noi abbiamo, i saperi, non ci funzionano più per le questioni che ci stanno a cuore, ne vogliamo trovare delle altre, abbiamo bisogno di trovarci assieme e quindi adoperiamo la lingua corrente facendo meno dei tecnicismi che sono già delle risposte a quei problemi. Cioè i tecnicismi sono già risposte, quindi ci troviamo assieme e riadoperiamo la lingua corrente, cioè la lingua comune, quella che tutti quanti adoperiamo. Questo è un elemento che avviene sempre nei momenti di rottura, nei momenti rivoluzionari, cioè le cose già codificate, sì, certo che funzionano, ce le abbiamo a mano, però in qualche modo non ci aiutano a affrontare le questioni che ci hanno portato a discutere assieme agli altri. Per cui ritorniamo a quello che è la lingua che ci accomuna, perché lì troviamo tutto quello che ci serve nella lingua che ci accomuna per mettere a fuoco le questioni che abbiamo davanti. E in questo senso, infatti succede che quando qualcuno in situazioni di questo genere usa dei tecnicismi, gli altri gli dicono ma vabbè, no, parla ritornando alla questione, cioè non adoperare le cose che già sappiamo tutti quanti, torna alla lingua che noi, cioè a parlare sulla questione, perché la vogliamo affrontare. Se noi ci troviamo vuol dire che stiamo cercando qualcosa, non che lo sappiamo già, ovviamente. Stare cercando qualcosa, mettere a fuoco questioni, mettere a fuoco situazioni, ci obbliga a fare un passo indietro rispetto ai saperi già codificati. E quando facciamo un passo indietro abbiamo a disposizione la lingua così com'è. La lingua così com'è è quella che abbiamo per cercare di saperi già codificati, però insomma mettendola in uso nella sua forma orale, in questo scambio, e cercando di trovare altre parole rispetto a quelle codificate. Una delle caratteristiche che avvengono quando si rinuncia a saperi codificati è che si incomincia ad andare a tentoni, nel senso che quando si va in una situazione e si sanno già tantissime cose e si usa, non si va a tentoni perché si hanno già le risposte. Quando invece si mette veramente in gioco la situazione, si va a tentoni, cioè non abbiamo già le risposte pronte. Questa è una situazione che in Diotima, che è la comunità di filosofia femminile dove lavoro, è venuto molto fuori, proprio all'inizio. Nel senso che agli inizi, si intende per gli inizi 1984, quindi un sacco di anni fa, proprio agli inizi, ognuna di noi che ci trovavamo per fare filosofia in fedeltà all'essere donna, questo era l'elemento nuovo che allora non c'era, nel senso che adesso è abbastanza banale, però allora nessuno faceva filosofia, cioè c'erano dei grandi filosofi come Hannah Arendt, Simone Weil, eccetera, ma nessuno che avesse fatto filosofia in fedeltà all'essere donna, cioè il movimento delle donne che era un'altra cosa. Allora ognuna di noi veniva da un'esperienza filosofica formativa. Io per esempio venivo dalla fenomenologia, il mio autore culto era Merleau Ponty, io tutt'ora moltissimo Merleau Ponty, e ognuna veniva da una formazione che veniva dal marxismo, che veniva da Wittgenstein, che sta in tutta l'area della filosofia analitica anglosassone, eccetera. E ci trovavamo lì ognuna con la propria formazione, il che significava avere una formazione che quando tu hai un problema citi ben quello che dice Merleau Ponty, non direttamente, ma insomma è in mente le parole di Merleau Ponty e le belle parole di Merleau Ponty già pensate le ripropone lì in contesto. Ognuno parlava, come dire, per interposto persona, parlava per Maxim, parlava per Wittgenstein, parlava per Merleau Ponty e tutti avevamo delle parole già confezionate. Il fatto che la pratica proposta lì in contesto sia stata quella di non citare nessuno, nessun testo, né di uomo né di donna, ma solo le parole delle donne che ci avevano preceduto nel discutere, è stata una proposta rivoluzionaria, molto frustrante, perché cosa succedeva? Che da questi saperi che di cui io parlavo bene, nel senso che in ogni situazione avevo una risposta, una formazione filosofica diventa come una specie di prontuario, nel senso che in qualsiasi situazione c'è una cosa già detta molto bella che ci piace, ben confezionata, scritta. Ci trovavamo ad affrontare le questioni senza avere questo prontuario e soprattutto ci veniva detto tieni conto di quello che ha detto la donna che ti ha preceduto, come nel jazz, tenete conto della frase detta da chi ti ha preceduto suonando. Ed era estremamente frustrante. frustrante e anche una ferita narcisistica, perché significava che invece di dire le cose ben confezionate, mi trovavo a fare riferimento ad una che aveva detto delle cose così così prima di me, com'è. E quindi io stessa mi provo a dire delle cose così così, non so, non avevo niente di ben confezionato. E il discorso andava a tentoni, nel senso che appunto andava un po' tentando di qua e di là, avendo delle questioni. La questione era che la filosofia è l'essere donna, questo era il punto, quello su cui ci dovevamo stare, e non ne uscivamo, sembrava di sbattere contro dei veri e propri muri bianchi con me. Però è stato molto interessante, perché poi è questo che succede quando veramente ti vai nella situazione e non sai già la risposta. In fin dei conti, fare pensiero significa questo, che tu non hai già la risposta e provi, riprovi, tenti, ritenti, fino a quando qualcuno non dice qualcosa che ti dice lì, sì, c'è qualcosa che mi convince. In genere non sei mai tu che dici una cosa che ti convince, è sempre qualcun'altra. Che tu dici delle cose sì che sono approssimate, c'è qualcun altro che però dice delle cose che ti convincono, e il desiderio di esserci con verità nel discorso significa anche accettare che qualcun altro che non sei tu dica delle cose veramente interessanti e valorizzarle, il che anche non è sempre facile come. Ecco, questo ho descritto questa pratica perché è una pratica che mostra come il fare pensiero in presenza va a tentoni ascoltando gli altri, accettando quello che di vero viene detto da altri e valorizzando quello che si sente di vero. Tante persone fanno, no, non tutte dicono qualcosa che noi sentiamo come qualcosa di vero. Riprenderlo e valorizzarlo e rilanciarlo fa parte della pratica di pensiero in presenza, che dà in qualche modo un gioco, come nel jazz, cioè una frase musicale, la riprendi, la rigiochi, in qualche modo gli dai spazio, gli dai un valore, gli dai autorità a quella frase. E questo è una modalità appunto che è un tipo di pratica dove noi, pensando, trovandoci, non sappiamo già in anticipo che cosa emergerà di vero in una discussione. Quindi occorre avere molta attenzione, avere molto orecchio e in qualche modo avviarci in questo senso. Una caratteristica di quando si discute assieme è e io ho adoperato la parola circolarità, perché l'ho ripresa anche dal vostro testo, avete adoperato la parola circolarità. C'è circolarità, però non è tutto, nel senso che in una situazione c'è una... Ciao Federica. Federica, più o meno. Ho ripreso la pratica di Biotima dell'ascoltare le altre e della... e devo usare le formazioni già adoperate, diciamo, e il jazz, e l'immagine del jazz, questo l'altra cosa che c'è nel nostro testo, appunto, dicevo prima, è quella della circolarità, e anch'io l'ho adoperata oggi, quella della circolarità. La circolarità funziona come immagine perché c'è una dimensione appunto di scambio, una dimensione orale dove si va tentando, c'è cioè un processo di tentativi, balbettamenti e riconoscimento della verità, soprattutto quando qualcuno dice qualcosa di vero, però circolarità non dice tutto. E questo io l'ho visto in tantissime situazioni, io non vi conosco, voi vi conoscete tra di voi quando lavorate assieme tra di voi, ma c'è sempre qualcuno o qualcuno che in qualche modo tira di più degli altri, cioè è più orientato in modo forte nella discussione. Orientato significa che qualcuno o qualcuno è più orientato verso quello che io chiamo verità, sapendo che la verità non sappiamo che cosa sia, cioè partendo dal presupposto che la verità non sappiamo che cosa sia, ma c'è un desiderio di verità, un orientamento, un desiderio di verità che in qualche modo trascina con sé le altre e gli altri. A volte nell'esperienza di gruppi di pensiero che io ho, a volte un certo giorno una certa persona che tira di più o più orientata, un altro giorno è un'altra ragazza, un altro ragazzo che tira di più e più orientata, nel senso che qualche giorno uno è un po' distratto e pensa totalmente ad altro, si lascia trascinare, si lascia tirare su questo. Però per dire che all'interno della circolarità non c'è uguaglianza di orientamento sul discorso, non di contenuto, ma di saper riconoscere, per esempio, nelle parole dell'altro un elemento di verità, nel saper essere in qualche modo, dire l'essenziale, separare l'essenziale da quello che non è essenziale, perché anche questo è importante, saper distinguere ciò che sta andando in una certa direzione da ciò che sta portando in una direzione completamente diversa. E in questo senso è più o meno come nel gruppo jazz, che c'è qualcuno che dà il tono. Quel qualcuno che dà il tono è quello rispetto al quale gli altri ascoltano e si mettono in sintonia con chi dà il tono. Lo stesso all'interno di una riflessione comune, chi dà il tono non necessariamente dice delle cose essenziali, lo fa quegli interventi che mostrano che è fortemente orientato e veramente desideroso di andare in una certa direzione. Ha un desiderio di verità che non si esprime in un contenuto, ma che la porta ad essere fortemente orientata. E gli altri, anche quelli distratti, in una certa riunione, non so, per qualsiasi motivo, si lasciano coinvolgere e trascinare da chi quel giorno, quel tipo di situazione, dà il tono, sente che è essenziale qualche cosa, ha quella capacità in più di quella giornata di trascinare gli altri in una certa direzione. Questo tra l'altro ha effetti anche di ordine, nel senso appunto per cui certi elementi inessenziali vengono tralasciati e si sta su ciò che è essenziale, diciamo. Com'è. Questo è un elemento per aggiustare un pochino questo elemento di circolarità che voi adoperavate, che pur essendo vero però non dà valore a chi dà il tono, che invece so per esperienza che è un elemento che non è impersonato sempre dalla stessa ragazza o dallo stesso ragazzo, vi dico, a volte varia e dipende da come una persona quel giorno lì è impostata, che cosa desidera. In un certo momento a volte uno si sente anche un momento di grazia, no? Per dire ma andiamo in quella direzione e dire le cose giuste, sentire all'orecchio che si stanno dicendo alcune cose giuste rispetto ad altre. E questo in qualche modo in questa pratica occorre fare attenzione e avere anche e valorizzare chi in quel momento dà il tono, nel senso chi in quel momento dà il tono, dà gli spazio, fa gli spazio in quel momento, sapendo che appunto in giorni diversi ci sono persone che funzionano in modo diverso, come ho usato la parola verità. La parola verità la do però in questo contesto dicendo è un orientamento. Noi se sapessimo già che cos'è la verità non ci troveremo neanche nella necessità di trovarci, di incontrarci, è proprio perché è un orientamento che ci troviamo. Se la sapessimo, pensare assieme non avrebbe nessun senso, è proprio perché siamo in una situazione di mancanza, di disagio di questo e desiderio di incontrarci e scambiare con gli altri che ci troviamo. Se noi avessimo la verità, non avremmo bisogno di trovarci. Allora, questo tema della verità, sempre all'interno della pratica che volevo descrivere, si presenta secondo modalità diverse. Io non so voi come lavorate assieme, però magari appunto quando faremo la discussione anche mi raccontate com'è, ma facendo riferimento all'esperienza di Diogina, di questa comunità di cui parlavo, vi faccio un esempio. Per esempio, dovevamo discutere un giorno sulla differenza tra realtà e irreale, e c'erano queste sia posizioni. Questa era la questione che ci stava a cuore, realtà e irreale. Mi ricordo che Wanda, che è un'amica di Ottima, diceva: ah, io quando sono in una posizione di irrealtà, di follia, sento che sono in una posizione di maggiore verità di quando sto invece a una dimensione di realtà. Per cui sento più verità nella irrealtà, nella follia, quando sono ai bordi di questo, di quando sto invece un discorso realistico come. Io mi ricordo che in quel tipo di situazione avevo detto: beh, io sento un elemento di grande irrealtà nella frammentazione che sto vivendo in questo momento. Un'altra amica, Cristina, ha detto una frase di un tenore argomentativo completamente diverso. Notatelo, ha detto: la realtà per esistere ha bisogno di essere intuita. Allora, sono due enunciati di un certo tipo e questo terzo enunciato di un altro tipo, di un altro genere. I primi due enunciati, quello di Wanda e quello mio, erano enunciati del genere di una verità soggettiva, cioè di una verità, non di un'opinione. Noi portavamo quello che era il frutto di un'esperienza di anni, l'avevamo pensata e lavorata, era frutto di un'esperienza e di una meditazione su questo, e la testimoniavamo anche con la nostra presenza, cioè ne eravamo anche testimoni. Quella che può essere chiamata una verità soggettiva. Non un'opinione rispetto ad un'altra, perché era una verità dell'esperienza, portavamo una verità dell'esperienza. La terza frase di Cristina, che era: la realtà per esistere ha bisogno di essere nutrita, è un enunciato che è un enunciato del così è, della forma così è un enunciato vero della forma così è un enunciato vero che non è una verità soggettiva, lei lo poneva come così è vero, appunto. Era un enunciato che io chiamo di scommessa del simbolico, cioè scommessa del simbolico, che tu dici qualche cosa scommettendo che dicendo quella cosa tu tocchi la verità dell'essere, la verità della realtà, che tu la tocchi. È una scommessa perché non abbiamo una verifica su questo, è sempre una scommessa, però è la scommessa che allora, dicendo qualcosa di vero, ti ritorni indietro la verità del mondo, la verità della realtà. È un tipo di enunciato che è proprio un rischio. Allo stesso tempo si vede se in qualche modo coglie, perché è la reazione degli altri che in qualche modo fa cogliere che è stato accolto come cosa della realtà, perché in genere di fronte ad enunciati che sono scommesse del simbolico, alzato del simbolico, c'è sempre un momento di silenzio. C'è un momento di silenzio perché le persone sentono che qualche cosa che è stato detto che le riguarda personalmente e si fermano, perché il silenzio è un momento di meditazione su quello che è stato detto. E la caratteristica di enunciati di questo tipo, che sono azzardi simbolici sulla realtà, è che sono anche retroattivi, cioè gettano luce anche su quello che è stato detto precedentemente, in qualche modo portano luce anche su tutta la discussione precedente, su tutto quello che è stato detto precedentemente, sono discontinui. Ora, in tanti incontri non avviene che ci siano azzardi simbolici, avvengono a volte che qualcuno riesca a dire quell'elemento di verità che si sente che ha il consenso degli altri, un consenso implicito, non che uno dica ah sì. È però il tipo di situazione che avviene è che c'è un momento di silenzio, che uno sente che questo è retroattivo rispetto a tutto quello che è stato discusso fino a quel momento, non azzerano le verità soggettive, ma in qualche modo le illuminano di un'altra luce. E in questo senso sono elementi assolutamente preziosi, che chiamo appunto di scommessa perché non c'è verifica, e che io uso come per spiegare l'immagine dell'arancia, hanno questa capacità di sbucciare l'arancia per il verso giusto, in modo che poi la polpa dell'arancia ci si offre bene in mano, ce la possiamo mangiare, invece quando ci sono azzardi simbolici che falliscono, tagliamo male l'arancia e l'arancia non ci si dà, non la possiamo più mangiare perché tutta il verso si dice pastro ciaggio, senza capo e coda, tutta rovinata. E che quindi non abbiamo più l'arancia. Allora l'azzardo simbolico è un rischio che ci ridà l'arancia, ma se perdiamo l'arancia si distrugge, mentre una verità soggettiva è sempre una verità che non distrugge, in qualche modo è una sfaccettatura d'esperienza, com'è. Però sono assolutamente preziosi questi momenti, so di incontri, di riunioni in cui non avviene un enunciato di questo tipo, ma non importa, nel senso che il lavoro che si fa provandosi, ragionando assieme, porterà tutti più avanti, cioè occorre avere pazienza nel ragionare, nel pensare assieme. È già molto che noi scopriamo gli altri, che portiamo verità soggettive, che abbiamo un elemento di guadagno dalla discussione assieme, che è sempre di più di quello che possiamo ragionare in modo singolare. A volte avvengono questi azzardi simbolici, a volte no, tanto meglio quando avvengono, quando non avvengono non importa, occorre avere pazienza, ma tanto c'è lo stesso guadagno di percorso in comune in questo ragionare assieme agli altri. Un po' quello che succede nella discussione assieme a tutti, però quando devo smettere, io andrei avanti ancora un po'. Quello che succede io vado avanti, questo è il professore in un'altra parte, ma sia che lo ora è libera assolutamente, però sono via nessuno parte di te. Allora, quello che succede, e questa sarà un'esperienza che voi avete avuto, è che in questi incontri è come se ci fosse un tavolo in mezzo, o anche in questa situazione circolare, ognuno porta nella discussione quello che può, quello che si sente di portare, e poi alla fine della discussione ognuno porta via quello che gli ha veramente interessato, quello che è stato veramente interessante. Poi un altro momento, a caso, nel proprio quaderno, mi capita nel mio quaderno, o ragionandoci altrove, o in solitudine, continua a pensare non a tutta la discussione, in genere sono quelle due o tre cose che sono state veramente interessanti all'interno della discussione, che non ci ragiona e ci pensa poi per conto proprio. Cioè, come appunto l'esperienza è quella di una grande tavola dove uno porta quello che può e si porta via quello che gli è interessato all'interno della situazione, come è. Questo è un po' quello che avviene. Una cosa che appunto cambia un pochino registro, però se abbiamo un quarto d'ora, è questa. Io ho anche parecchio lavorato all'interno di questo libro, Pensare in presenza, sulla retorica e sulle forme argomentative del pensare in presenza. Partendo dal presupposto che la retorica, non c'è discorso senza retorica, questo ormai nel dibattito del Novecento è un luogo comune, si fa pure retorica, c'è questa famosa frase di Dumaschi che viene sempre citata nei manuali di retorica, si fa pure retorica in un mercato a sabato mattina che nelle aule universitarie. Allora questa frase significa che la retorica struttura il linguaggio in quanto tale, come. Cioè non c'è nessuna modalità linguistica senza retorica, com'è. E la retorica quindi si basa su tutte le forme del linguaggio, per esempio anche la E, la connessione E, se andate a leggere i testi di Gilles Deleuze, lui ha strutturato il discorso retorico e di pensiero sulla congiunzione e, che è una forma di congiunzione disgiuntiva, per cui la forma di congiunzione disgiuntiva diventa anche uno stile di ragionamento, e se pensate lui ha valorizzato la forma e come, quindi la cosa più semplice che noi abbiamo come modalità, che è diventata però modalità di pensiero, modalità sulla base di uso retorico di pensiero della congiunzione e. Questo è un esempio importante, quello di Deleuze, se voi andate a leggere i testi, proprio sull'elemento più semplice del linguaggio che la E lavora per strutturare argomentativamente il suo discorso. Quindi questo è fare attenzione al fatto che in realtà noi mettiamo tutto in campo, cioè quando noi stiamo discutendo con gli altri, tutto quello che è il linguaggio mettiamo in campo, la E, il perché, come, cioè tutto quello che ci viene a mente diventa materiale come la grande pentola del linguaggio. Tutto nella grande pentola del linguaggio mettiamo dentro, perché lì cerchiamo di persuadere gli altri. E allora vorrei passare al tema della persuasione, che per me è un tema molto importante. Lo sapete, ci sono come due grandi linee, quella dei sofisti, tornando alla filosofia greca, quella dei sofisti, per cui con la persuasione possiamo persuadere di una posizione e del suo contrario, che una cosa grande e piccola, una cosa piccola e grande. Questa è la figura retorica che loro adoperano. La figura retorica argomentativa che loro adoperano, oppure quella di Platone del Fedro, che dice: solo quando abbiamo guadagnato verità possiamo convincere gli altri della verità. Ora, rispetto a queste due posizioni, la posizione che io vedo che c'è all'interno del pensare in presenza, dove stiamo cercando, tentando nel processo stesso di trovare elementi di verità, non è né l'una né l'altra, cioè non è né quella dei sofisti, non è quella di Platone. Perché una delle caratteristiche del pensare con gli altri, e questo è proprio il guadagno che io ho avuto nella pratica del pensare con gli altri, è quella per la quale io, cercando elementi di verità, cerco di persuadere gli altri persuadendomi, nel senso che la persuasione della posizione che sto proponendo mi viene dalla risposta che ho dagli altri. Questo è un elemento tipico del discutere assieme agli altri, proprio perché noi andiamo a tentoni, siccome proprio noi stiamo tentando elementi di verità, non ce l'abbiamo, e magari stiamo portando una posizione ma non siamo totalmente sicuri di questa posizione, allora cerchiamo di convincere gli altri, persuaderli, perché dalla loro risposta ci persuadiamo che è una buona posizione. Cioè la risposta che gli altri ci danno ci permette di capire se quello che stiamo dicendo, che stiamo tentando, è qualcosa che li persuade e quindi ci persuade. Perché noi stiamo tentando assieme agli altri, non so come dire. C'è un elemento della persuasione che è assolutamente tipico del discutere assieme, per cui tentando una posizione la gettiamo lì, però l'argomentiamo persuadendo gli altri, la risposta che gli altri ci danno, ma anche dallo sguardo, non solo dalle parole, ci permette di capire se è persuasiva ed è quindi persuasiva anche per noi. Quindi la persuasione prende una piegatura di questo tipo, che è molto interessante, che è tipica della discussione con gli altri. Questo è proprio un elemento a cui io tengo tantissimo, che è un guadagno del lavoro che ho fatto da anni di gruppi di pensiero in comune, che la persuasione è una persuasione che facciamo nel processo, persuadendo gli altri, mi persuado che la posizione che sto proponendo è una posizione che è persuasiva effettivamente, anche nei miei confronti. Poi termino con solo un punto, che tra l'altro nel mio libro lo riprendo da Adorno, della scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte aveva come caratteristica, rispetto a tante altre scuole filosofiche, di dare tantissima importanza alla discussione comune, non a caso si chiama scuola di Francoforte, e loro lavoravano veramente molto in comune e i libri erano, un po' come per Piotti, ma quasi secondari rispetto alla discussione che facevano in comune. Era più importante per fare filosofia discutere oralmente, e poi uno poteva scrivere dei libri, però il luogo sorgivo era la discussione. E Adorno dice, non date definizioni. Quando discutete, è una cosa che ho trovato molto giusta di Adorno, e ve la ridò, diciamo, all'interno di una pratica di discussione in comune. Quando discutete, non date definizioni. Perché dare definizioni significa attenervi a un codice già collaudato, allora che cos'è la tal cosa, uguale, e la definizione è un sapere già collaudato, non so cosa dire, no? Proprio fate una parte uguale a un sapere già collaudato. Quindi non pensate, cioè fare pensiero significa non stare ai codici già dati, si pensa perché c'è necessità di pensare, se c'è necessità di pensare i codici già dati non stanno più funzionando. Quindi quando qualcuno dà definizioni, di prenderlo soltanto come un momento di passaggio argomentativo, ma non prenderlo come un elemento costruttivo dell'argomentare. Io trovo che questa posizione di Adorno è molto interessante, molto vera. Se qualcuno ha bisogno di definizione, lasciatelo pure. Via la definizione, ma come un passaggio tra gli altri, non come un elemento fondante, come un passaggio tra gli altri che proprio la persona lì ha bisogno di definire in quel momento, è il suo modo di dire alcune cose, ma passate oltre, non state a discutere sulla definizione. È un consiglio che vi do perché invece io so i momenti di discussione comune che si bloccano sul tentativo di dare definizioni, che in qualche modo non rendono fluido il discorso e poi portano ad un sapere già collaudato, portano un sapere. Quindi se qualcuno lo fa, lasciatelo come passaggio argomentativo, ma andate sempre oltre. Ecco, termino con questo consiglio di Adorno che mi sembra un ottimo consiglio. Thank you. che il reale per esistere ha bisogno di essere nutrito, io mi sono resa conto che la gente si è fermata e ha cominciato a riflettere, nel senso che era anche un po' enigmatico, non è che fuori, così evidente, così chiaro, però anche nella sua forma di enigmaticità si avvertiva che diceva qualche cosa che faceva riflettere, dovevi anche un attimo starci a pensare, e però che ti metteva in un movimento di pensiero e che è diverso da una verità soggettiva, che tu dici, la verità soggettiva è una testimonianza di verità che è anche una verità naturale, eccetera. Allo stesso tempo invece qualcosa che tu senti come vero ormai enigmatico ti obbliga ad aprire, a fare un percorso, cioè non è chiaro quello che veniva detto, cioè paradossalmente gli enunciati del tipo così è sono meno chiari, meno perspicui, meno trasparenti, diciamo, di quelli invece di verità soggettiva, come e soprattutto hanno la capacità di fare un percorso, cioè da lì devi cominciare, ti capita di cominciare a pensare che cosa significa, perché, in che senso, cosa vuole veramente dire questo, e diventa poi una ricchezza un po' per tutti quelli che lo sentono in questo modo, come però in genere quel tipo di silenzio che si crea di fronte a un certo di questo genere significa che le persone cominciano a pensarci, a ruminare, a fare una specie di ruminazio di questo enunciato com'è. E guarda, posso assicurarti che cioè, non è che ce ne sono tantissimi enunciati di questo tipo, nel senso che c'è, è difficile che ci sia una sovrapposizione, soprattutto se poi le persone si ascoltano parlando. Qui si presuppone che ci sia una pratica di ascolto, se non c'è una pratica di ascolto può andare con la situazione che tu dici di sovrapposizioni, però allora non ci sono neanche enunciati di verità, nel senso che enunciati di questo tipo sono frutto di tutto il discorso precedente, non è che nascono da niente, non nascono dalla testa di quella da Cristina che dice questa cosa, hanno passato 3-4 ore di discussione e in qualche modo lei diceva una cosa che non aveva pensato prima, le veniva in mente perché c'era stato 3-4 ore di discussione precedenti. Quel tipo di pericolo che tu dici nasce da quando non c'è una pratica di ascolto degli altri. Allora se non c'è una pratica di ascolto degli altri ci sono persone che dicono non c'è di questo tipo, però neanche vengono prese proprio sul serio. Cioè non viene detto prima, perché la verità è una cosa che è tra interno e esterno, tra mondo interiore e mondo esteriore. Non è quella cosa soltanto, uno dice la realtà ha bisogno di nutrita perché può esistere, non è qualcosa soltanto soggettivo interiore, né soltanto esteriore, cioè c'è qualcosa di te che viene toccato e in qualche modo c'è una rispondenza del mondo a questa risonanza che tu avverti. Questi enunciati di questo tipo avvengono proprio a volte e sono comunque frutto di tutto un percorso. Non sono assimili, sono discontinui, sono sempre discontinui, però in qualche modo c'è un nutrimento di tutto ciò che succede prima. E questo è quello che tu segnali come pericolo. In realtà avviene quando ci sono enunciati politici ma la gente non si è ascoltata, allora si sovrappongono, cioè, e le altre persone non lo prendono, non lo prendono come qualcosa che fa meditare in un percorso. Cioè è proprio come una questione di qualità diversa e di pratica diversa. Questo è un po' quando mi faccio una domanda, una già mi ha risposto perché l'ascolto, insomma, pensando in presenza fosse necessario una pratica dell'ascolto, un esercizio dell'ascolto, e l'ho detto adesso, quindi passo a un altro. Quanto è importante nel pensare in presenza, l'esperienza personale, che veramente adesso lo vorrei opporre a una conoscenza dei testi, no? Quanto è importante la propria esperienza personale, quindi quelli enunciati di fuori, no? in trasformazione, in processo, cioè i dispositivi quando sono pratiche sono sempre in trasformazione, quando diventano tecniche invece sono rigidi, sono ripetibili, no? Cioè sono dimensioni ripetibili, come ad esempio è vero che questa aula è un dispositivo per l'esposizione degli spazi, però sul lato più della tecnica che della pratica, perché questa aula è modificabile, nel senso, e poi gli architetti dell'università tendono a ripetere queste. Invece un dispositivo che si modifica da tempo, si trasforma in una pratica perché ha la capacità di modificarsi, trasformarsi e così via. Quindi la verità soggettiva di un'esperienza personale è importante, ma non in assoluto, all'interno di una pratica. Cioè all'interno di una pratica diventa un elemento di un processo, di un percorso di pensiero con altri, e allora diventa un elemento di esposizione, per cui anche si offre la propria esperienza, la verità soggettiva, non semplicemente un racconto di esperienza, ma qualcosa che ti riguarda, che è maturato, cioè un elemento che veramente ha la discussione con gli altri. In qualche modo c'è anche una forma di dono quando tu porti la tua verità soggettiva che ci hai pensato, che in realtà riguarda veramente il tuo percorso, la offri agli altri e alla discussione, c'è anche una forma di dono in questo, ma all'interno di una pratica, per questo che è la pratica che rende ricca l'esposizione di un'esperienza personale in una verità soggettiva, piuttosto che appoggiarsi soltanto alla conoscenza dei testi, poi ovviamente la conoscenza dei testi aiuta su certe cose, eccetera. Ma se non c'è una pratica di questo tipo, l'esposizione alla verità soggettiva, in che contesto, dove, può essere anche proprio totalmente inutile, può essere detta in un momento sbagliato perché non c'è la situazione in cui diventa un dono per un arricchimento di un percorso. Quindi la verità soggettiva non è in assoluto un elemento positivo, è un elemento positivo all'interno di una pratica di pensiero, ma anche per questo quello che su cui insisto è che è un momento di un percorso che si fa di pensare. Io sto lavorando solo su una delle pratiche di pensiero, tipo una cosa che ho detto prima, cioè la pratica di pensiero che è legata alla discussione con altri, la pratica di pensiero che è legata alla scrittura, la pratica di pensiero che è legata all'internet, la pratica di pensiero che è legata a fare una conferenza, cioè come porta a usare l'esperienza personale, la verità soggettiva che viene legata. Secondo me per diversi, per esempio prima parlavamo di Recalcati, che durante la conferenza, alla fine della presentazione del suo libro L'uomo senza inconscio, ha portato un'esperienza di verità soggettiva anche come testimonianza, che allora però quel tipo di pratica che è la conferenza è fondamentale, ma ha un'altra modalità, diciamo, cioè sta all'interno di un altro registro. Non so che cosa volevi chiedermi. No, sì, era. È un po', era un po' legato anche a quello che ho detto prima, perché un po', no? Quando si tratta delle questioni, c'è scritto, no? Risulta, come dire, c'è questa esigenza di prima di parlare insieme, non basta documentare in maniera sulla direzione. Cioè, io sono convinto che sia necessario, però sono anche convinto del fatto che portare l'esperienza personale di qualcosa che inevitabilmente è come dire, filtrata forse delle conoscenze che tu hai fatto, no? Credo che abbia un valore importante e come abbiamo detto, nella pratica così intesa è un momento, io lo vedo importante, ecco, cioè quello di portare l'esperienza tua. Certo, poi non dimentichiamoci assolutamente, questa cosa ha fatto che forse una edizione qualcosa può venire da un'esperienza. Sì, sì. Tenendo conto che in questo momento i saperi codificati non accettano tantissimo che tu parli, quindi nel momento in cui tu valorizzi una verità soggettiva per il rapporto di un'esperienza personale, vai anche in conflitto con certi saperi che sono più oggettivanti, per esempio sul tema del lavoro, portare l'esperienza che tu hai di situazioni di lavoro come piuttosto che gli studi sul lavoro, vai anche ad una forma di conflitto. E chi è che ha più autorità? L'esperienza che tu hai, di quel, anche di micro situazione che tu hai, però tu sei coinvolto, o gli studi sul lavoro che parlano anche di te, e lì si apre anche un conflitto. Quindi questa posizione non è solo una posizione di arricchimento, porta anche all'interno del conflitto sul proprio. Secondo me, diciamo, distaccabile per l'antico, cioè nel senso c'è un conflitto. Cioè, se tu assumi questa posizione vuol dire che stai entrando in un conflitto dove il sapere che nasce l'esperienza e per il conflitto con un sapere statistico oggettivante che ti parla anche per te. Quindi non c'è soltanto un'inclinazione personale, come lo ponevi tu, non è giusto di un'inclinazione personale, cioè questa capacità e potenzialità che noi abbiamo di portare un'esperienza personale a una verità soggettiva. Ti stavo disegnando una situazione nella quale questo c'è, però allo stesso tempo se tu la porti veramente fino in fondo questo, entri in conflitto con chi presuppone che il sapere sia un sapere oggettivante, statistico, così via, e che devi leggere in qualche modo il conflitto. Che di adesso? Perché in altre epoche la storia alla verità soggettiva veniva detto Galilei, per esempio, la verità soggettiva, cioè quello che ragionava, l'esperienza che lui faceva ben ragionata veniva valorizzata come quindi per chiedere queste cose che sono collegate, una che ruolo hanno i corpi nel pensare, parlare in presenza, il ruolo del corpo, sì. E collegato a questo appunto lei diceva prima internet, sì. Ecco, chi più o meno i corpi non ci sono, oppure non so, cioè, fa differenza per esempio parlare insieme in una situazione come questa, qui siamo qui in carne e ossa, rispetto a parlare in videoconferenze, comunque non so, c'è comunque l'immagine, il corpo, il suono del lavoro, però ci sono delle differenze, non si può considerare questo. Sì, le due cose sono collegate, le due domande che tu fai, perché nel pensare in presenza, un aspetto che per me è molto importante pensare in presenza è che c'è un lato di visibilità reciproca, percezione visibile, percezione reciproca della voce, del tono della voce con cui tu hai fatto l'intervento ora, il tipo di atmosfera che c'è, di attenzione e così via, che implica sia la percezione sia un lato che ho chiamato inconscio, sovente Judith Butler ci ha lavorato, come anche François Dotto ha lavorato su questo, cioè c'è un lato inconscio dei legami tra di noi che in qualche modo fa sì che quello che noi diciamo come parola sia misurato dalla percezione che abbiamo reciproca, ma anche per il lato inconscio del corpo. Il lato inconscio del corpo è qualcosa che noi ci portiamo, vabbè, la psicanalisi viene dalla fase dello specchio, in cui dello specchio noi ci conosciamo come percezione, ci individuiamo noi con il nostro corpo visibile, ma tutto quello che non è visibile del nostro corpo, che è l'esperienza del corpo materno, come spiega Dotto, non è rappresentabile. Nel momento in cui ci individuiamo, corpo era da un'altra parte, cioè ero da un'altra parte come modalità inconscio del corpo. E questo lato invisibile inconscio del corpo fa sì che il pensare di presenza abbia un certo peso e delle modellazioni, delle forme che altre forme di pensiero non hanno o che trasformano, diciamo, che portano a trasformazioni. Per me internet è un altro tipo di pratica di pensiero che secondo me va studiata, so che adesso c'è un convegno sulle forme del linguaggio, le forme del pensiero proprie di internet, e vanno proprio pensate come delle altre modalità, delle altre pratiche. In questo senso hanno un valore accanto a questo, però hanno un valore diverso, hanno delle caratteristiche diverse, perché è un linguaggio che è diverso da quello della scrittura vera e propria, però è diverso da quello della presenza, quindi si sta creando con un'altra pratica di pensiero tutto dell'internet. Secondo me si stanno aprendo delle vie di scoperta, della caratteristica del pensiero proprio delle forme di internet, che sono molto interessanti, ma che sono decisamente diverse da queste. La presenza porta appunto questo elemento inconscio che fa le gambe, da cui a volte si esce da un certo tipo di situazione e c'è una grande intensità di presenza in quel luogo, e la discussione, le discussioni attraverso internet sono discussioni che hanno bisogno di altri segni, di altre attenzioni, di usare l'ironia in un certo modo piuttosto che un altro, usare le forme di cortesia in un certo modo piuttosto che altro, insomma, sta creando uno stile di pensiero particolare che ha deciso che ha delle caratteristiche, dove il corpo è presente come nella scrittura, diciamo, anche nella scrittura è presente il corpo, ma in modalità completamente diverse da quelle della presenza, dove l'atto inconscio del corpo che ci unisce involontariamente è molto più forte. Allora, io ho due cose. La prima è data all'autore. La prima è data all'autore. Allora, prima si diceva che, facendo esempio musicale, no? Sì. Che nel pensare in presenza nessuno è autore, ma e questo aiuta a prendersi un momento serio, no? Sì. Quindi allora volevo chiedere se proprio il fatto di non essere autore, ma di essere coautori, coautrici, o di probabilmente spostare proprio la logica dell'autorialità, autorità, se va a sottrarsi al potere, a un certo tipo di potere, se appunto è proprio questa la chiave, cioè autore o non autore, del pensare in presenza. Seconda cosa, non ho ben capito se il passaggio al linguaggio comune avviene solo quando si verifica uno scollamento tra cose e parole, no? Cioè si diceva che se in qualche modo il pensare in solitudine non basta, se qualcosa, se c'è una corrispondenza tra cose e parole, se qualcosa si inceppa, allora si ha bisogno di cercare un linguaggio comune. E a me, non capisco se il linguaggio comune succeda per forza ad un linguaggio, tra virgolette, privato, cioè una sfera privata, o se invece, come così mi sembra di pensare forse, se le due cose non siano rigidamente, se non siano spiegate, cioè se il linguaggio comune può benissimo convivere con un linguaggio in solitudine, cioè e se non si verifichi per forza che si cerchi un linguaggio comune se manca qualcosa in quello privato. Cioè questa è la cosa che forse non ho capito bene. Adesso rispondo che non so se ho capito anch'io. Cioè prima si diceva, no? Che ho scritto, cioè cercare un linguaggio comune indica, vabbè, insomma, che qualcosa si è inceppato, che si è verificato uno scollamento tra cose e parole. Allora mi risulta difficile pensare, cioè parlando di me, che io abbia bisogno solo se quello privato non mi basta. Cioè, non penso che io cerchi, come dire, di un linguaggio comune, cioè, lo vedo come preesistere, cioè come subito prima, subito dopo, subito accanto il linguaggio comune, non come dire, come successivo a. Cioè, sono delle modifiche. Sì, ho capito. La parte di questa seconda tua domanda, no, perché per me il linguaggio comune abbiamo solo il linguaggio comune, cioè no, non c'è il composto un po' di italiano, cioè non c'è un linguaggio privato, tutta la nostra lingua è lingua comune. Poi io posso scrivere il mio quaderno di professioni perché ho bisogno di scrivere in solitudine, ma la lingua che adopero è quella che adopri anche tu. Quindi c'è solo la lingua comune, dopodiché io posso stare in solitudine, ma quando io scrivo, scrivo quelle parole che anche tu avresti, non c'è mai un linguaggio privato, c'è sempre un linguaggio comune che è quello che ci accomuna. Poi io posso scrivere che ho bisogno di riflettere in solitudine, ma rifletto in solitudine sul mio quaderno, ma usando il linguaggio che io e te stiamo adoperando, non ce n'è un altro. È questo che abbiamo in comune, quindi in questo senso una ricchezza circolante, una moneta circolante e anche una ricchezza circolante che è esattamente tutta quella che abbiamo e che è tantissimo perché a partire dalla lingua comune, che però appunto non c'è mai un lato privato, c'è un momento di solitudine però di un linguaggio che è quello circolante, c'è un momento di solitudine ma non c'è un lato privato del linguaggio, c'è solo il linguaggio comune come. Nei momenti di solitudine hai ragioni tra te e te, ma usando le parole che sono quelle della lingua comune, diciamo, quella della quale ci comprendiamo adesso, i codici, i codici che ci sono circolanti. Dunque questo scollamento significa all'interno del suo linguaggio comune. Cioè come cercare un linguaggio all'interno del linguaggio comune. Esatto, sì. Lo scollamento succede quando. Quando certe cose che funzionano come luoghi comuni, i luoghi comuni sono, c'è una bella definizione di Anna Arendt che dice che i luoghi comuni sono i luoghi che abitiamo assieme, cioè in genere noi pensiamo ai luoghi comuni sempre in senso negativo, come dirà, i luoghi comuni sono ripetitivi, noiosi, eccetera, o vogliamo l'originalità, però d'altra parte il luogo comune è anche semplicemente un luogo che del linguaggio che abitiamo assieme e che ci accomuna e che a un certo punto possiamo criticare, ma perché li abbiamo in comune questi, e per criticarlo però usiamo il linguaggio comune contro i luoghi comuni, come a volte ci sono dei luoghi comuni che in qualche modo sentiamo che non sono più veri, dei luoghi comuni del linguaggio che sentiamo che non reggono più, cioè come non ci dicono più la realtà che stiamo vivendo. Per esempio, per me in questo momento il luogo comune globale e locale mi sembra un luogo comune che ha finito la sua verità, non so come dire, e sì che è molto circolante. Allora, di fronte al luogo comune globale e locale, per cui qualsiasi cosa può essere spiegata attraverso il globale e locale, sento che si sta scollando dall'esperienza della realtà, il che significa che vorrei portare in discussione questo presente di Ottima per dire rispetto a questo come ci muoviamo e aprire una questione su questo. Faccio un esempio. Allora, aprire una questione su questo dicendo non usiamo più mostra la corda questo tipo di immagine globale e locale. Vediamo che cosa oscura e che cosa invece pensiamo che siano le cose da dire adesso in questo momento che non hanno a che fare con il globale locale. Faccio un esempio. Ecco, è lì che il linguaggio si è inceppato su una figura molto usata come globale locale che io sento che non funziona. Però non ho le parole per dire allora l'esperienza, perché è talmente onnivora questa immagine globale locale che mi è difficile. Allora ho bisogno delle altre, degli altri per discutere di questo. problema, se io non riesco a convincerle, non riesco, capito? Cioè, quando tu senti che qualche cosa si inceppa, devi convincere, però che lì si sta inceppando qualcosa e che lì c'è un vero problema, una vera questione, altrimenti non trascini gli altri a, a ragionare su questo. Ecco. E però usando il linguaggio, di tutti. Come... L'altra questione che tu dicevi dell'autore, ho trovato, vi ho trovato una domanda, non so se capisco bene, è chiaro che nessun autore del proprio discorso fa venire in mente il colore del discorso dove pone l'autore come elemento di, dell'organizzazione del potere. Perché, perché altrimenti non capisco tanto la tua domanda se può venire in mente questo, perché sottrarsi ad un certo tipo di potere lo si può fare anche scrivendo, cioè anche nella pratica di scrittura ci si può sottrarre a certi dispositivi del dominio linguistico di potere, come non necessariamente soltanto nella pratica linguistica della discussione con altri. Certo, nella discussione con gli altri si è rinforzata in questo, nel senso che però è anche limitata, nel senso che se non riesci a convincere gli altri che questa è una questione importante, gli altri ti riportano a certe questioni che a te sembrano, non so come dire, da una parte discutere con gli altri è una pratica che è una ricchezza, perché c'è come un sapere collettivo in più. Però gli altri ti possono, se tu non riesci a persuadermi che certe questioni ti possono portare indietro rispetto a certe cose che hai capito. Non sempre automaticamente discutere con gli altri, voglio dire, è un elemento che apre un cuneo di apertura di senso sulla realtà, liberità di, sulla realtà, che è per te soddisfacente. A volte discutendo con gli altri non trovi questo tipo di situazione. E a volte in solitudine trovi delle modalità. In genere discutere con gli altri dà più ricchezza che in solitudine. Però ci sono delle volte che tu non convinci gli altri, è tutto un gioco di persuasione, come quando si sta in una discussione con altri, e se tu non riesci a persuadere gli altri, sei un po' invalidato su quello che tu volevi dire. Quello che dicevo prima è che se gli altri non accettano, non si lasciano persuadere dalla tua posizione, tu ti senti più fragile sulla tua situazione. Ma d'altra parte, se tu ci credi, in qualche modo altre pratiche di pensiero ti possono aiutare su questo. Perché tu l'hai messa la domanda così? Sì, questo non essere autore del discorso, questo pensiero collettivo, diciamo, è un modo più forte di sottrarsi al potere. No, questa era la tua domanda. Cioè, semplicemente mi era piaciuta una metafora, per cui così il fatto, cioè non avevo mai sentito in questa cosa non prendersi sul serio. Ah, sì. Questo rispetto al fatto che che non si è autori, no? Sì. E allora così semplicemente non ho fatto caso a questa, cioè alla questione del non mi stavo vivendo a tipo, io non ho detto niente. Non mi stavo vivendo a tipo, no, era proprio così, sì, no, perché me lo e quindi così no, pensavo che forse cioè, il fatto di non essere autori in quel caso, ma di rispondere l'improvvisazione su un motivo, no? Sì. Potesse rendere il giusto equilibrio tra libertà, dire, prendersi meno sul serio e dunque sfuggire un po' a una logica, cioè, al potere esercitato in un certo modo. Cioè, sì, era un'immagine. Sì, beh, allora sì, in questo senso sì, perché adesso ho capito, per te era importante non prendersi troppo sul serio. Sì, perché adesso ho capito. No, allora sì, nel senso di quell'elemento della leggerezza. situazione di resistenza al potere e di essere in opposizione al potere, apre più ad un discorso di gioco comune che permette quella leggerezza che ti permette anche di scandagliare situazioni nuove e modalità nuove, che ha bisogno di leggerezza, anche nel senso che se stai troppo impattata sul potere contro potere, hai quella serietà e quella pesantezza che poi devi chiudere nel gioco stesso che ti è dato. Ah, in questo senso, se adesso ho capito meglio la tua domanda. Sì, aiuta molto quello di non prendersi sul serio, ad avere quella leggerezza che permette di scandagliare strade nuove, di andare per strade nuove, anche senza troppo preoccuparti. E dopo andare a vedere che questo può aprire dei conflitti, dopo andare a vedere che può aprire dei conflitti con situazioni di potere. Intanto tu ci stai andando perché ti piace, sei in una situazione di leggerezza e vai com'è. Allo stesso tempo però c'è anche una forma di nel non prendersi troppo sul serio, del mettergli un pezzo, che è un pezzo di te, a disposizione degli altri. Cioè c'è anche un elemento di colodono, nel senso che porto un pezzettino di te, che è una verità soggettiva, una cosa che hai capito, una questione che ti sta a cuore, un problema che ti sta a cuore, a disposizione degli altri, che gli altri possono riprendere liberamente e anche entrare in conflitto con te, cioè su una cosa. Quindi c'è un elemento di gioco che è anche una forma di esposizione agli altri e che però si apre uno spazio che è uno spazio di libertà, dove il conflitto col potere viene dopo, cioè viene dopo questo. C'era una frase molto bella di Pasolini, data da un ricordo più dove, che dice: sì, prima andiamo per le cose che soggettivamente ci piacciono, ci interessano, ci coinvolgono, dopo ci occuperemo del potere. Prima andiamo per la nostra strada e dopo ci occuperemo del potere. È un po' della stessa cosa che stavi dicendo tu: prima andiamo per questa strada, senza prenderci troppo sul serio, giocando, prendo spazi, e dopo faremo del potere. Sì, adesso ti ho risposto. Sì. Io un po' di motivo fa, comunque l'idea di leggerezza, di non prendersi troppo sul serio, è l'idea del discorso come persuasione. Forse perché la persuasione è un po' diciamo, un pregiudizio negativo nei confronti di questa parola. Allora, pensando tra le parole che mi potevano venire in mente per sostituirla, non si potrebbe dire qui, al posto di persuasione, un tentativo di restituzione di qualche tipo, più che una vera e propria persuasione. In che senso restituzione? Una restituzione che, cioè, più che persuadere gli altri, cercare di capire la risonanza di quel che sto dicendo, cioè come risuona nell'altro, e in base a quello che è. Ma se quello regolarmi più che tentare di convincere, cioè forse la trovo più vicina all'esperienza di questo circolo che abbiamo fatto noi tra di noi. Sì, beh, fa parte della modalità che io sto adoperando di persuasione il sentire come risuona nell'altro. Però qua c'è una certa differenza tra le tue posizioni e la mia. Cioè questo sicuramente c'è di risonanza, di sentire come risuona nell'altro, perché è un arricchimento per me capire come risuona nell'altro, è un arricchimento per capire che cosa sto dicendo, perché e poi come risuona nell'altro che cosa dice, come tu me lo stai dicendo ora, è un arricchimento anche del discorso, sicuramente un arricchimento del discorso. Però c'è anche una differenza tra la mia posizione e la tua, perché nella mia posizione c'è proprio il tentativo di persuadere, che poi magari non ce la faccio, non riesco, ma perché ho bisogno di persuadermi persuadendo. Cioè, in qualche modo, se ho risonanza è una forma di risposta, ma la risonanza può essere una specie di sfaccettatura diversa dello stesso discorso, come ma se io sto cercando qualcosa, non sono sicura di quello che sto dicendo, no? Cioè, sto dicendo una cosa, la metto in circolo perché stiamo tentando, non è che abbiamo già la verità. E quindi dico una cosa, ma non sono completamente sicura, cercando di argomentare per persuadere anche me stessa, nel senso che c'è un elemento di vedere che cosa sto dicendo, che cosa, sto cercando di argomentare anche per me. E quindi mi serve cercare di convincermi per convincermi com'è. Poi il tipo di risposta che tu hai mi dà un elemento sulla risonanza, però anche una risonanza è come una forma di risposta, perché la risonanza mi dice delle cose, non è, risonanza, non è soltanto un elemento empatico, un elemento empatico su alcune parole che mi dici com'è. E le parole che mi dici mi rimandano qualche cosa di quello che ho detto cercando di persuadere, perché perché è così, nel senso che si sta facendo, è un processo che si sta facendo con me, e non tutte le posizioni sono identiche, e io sto cercando una strada con me. C'è un sapere comune che viene fuori, ma un sapere da cui ognuna si porta, o ognuno si porta a casa alcune cose e non altre, e non sono identiche. E in questo senso l'aver convinto, e poi non c'è mai una verifica di aver convinto al 100%, comunque aver avuto una risposta positiva su qualche cosa, lo si vede anche da come rispondi, il tipo di risonanza che tu dai a una risposta, che non è che mi dici sì, sono d'accordo con te, mi mostri alcuni aspetti di quello che ho detto. Questo mi rimanda qualche cosa che mi serve nell'andamento, come sì, probabilmente dietro la differenza, la mia scuola parola, forse c'è l'aver sempre percepita come qualcosa di coercitivo, cioè l'aver sempre associato persuasione a un tipo di prevalenza. Di convincere, sì, ma perché appunto infatti la posizione di Platone è quella del figlio, non sono d'accordo, nel senso che l'attore nel Fedro dice si può andare ad un'oratoria solo quando si ha la verità, ma all'interno di un percorso di pensiero in cui si è in processo tu non ce l'hai già la verità, però fai dei tentativi di andare a qualcosa che in qualche modo guadagni da una discussione con altri. E questo sì, nel senso che un desiderio di avere poi degli elementi in mano, che sono degli elementi in mano che sono naturalmente all'interno di un percorso, che non sono completamente stabili, ma sono all'interno di un percorso. L'importante è poter rilavorarli e avere delle risposte su questo. Collettivo di più persone, cioè come si chiama, tramuta la situazioni magari in cui si è immersi in parole, in parole che poi diventa, cioè che fa problema e dovrei elaborare una strategia riguardo alle orders e delle cose, insomma. E poi l'altra. Aspetta, prima di passare all'altra cosa. Cioè, la prima parte del tuo discorso dà l'idea che si discute in un contesto, però l'altra facoltà stava discutendo anche tra di loro. Allora, l'idea è che puoi fare una strategia, tu vuoi dire, c'è una questione di un sapere più ampio che in qualche modo non va a sintesi dei saperi che ci sono, allora come fare? Sì, diciamo, come diciamo, riportare le situazioni che provengono dall'esterno non sono presenti di fisicamente. Diciamo, e come a qualche punto diciamo, appunto, la persona che è più capace di orientare il discorso alla sezione qual è quella che riesce a diciamo, interpretare meglio una realtà non esistente, non presente, questo è un po'. Qui adesso mi ripasso alla seconda cosa. Era la questione della circolarità del modello di discorso. E ad esempio con Federica qualche tempo fa ragionavamo sul fatto che a un certo punto valorizziamo questo problema della neutralizzazione delle differenze dei discorsi. E quindi ecco, a quel punto circolarità non significa che diciamo, un discorso è neutralizzato in tante piccole diciamo, scansioni, in tante piccole unità discorsive che non rimandano appunto la capacità di chi fa da traino di chi è più vicino alla verità. Quindi quali modelli ci sono di alternative rispetto a questa circolarità diciamo riveduta e corretta? E questo è sempre va a raccontare l'esperienza, per esempio Federica conosce l'esperienza dell'autoriforma della scuola, dell'università, dove c'è una situazione assembleare dove non è che allora si ripartiva da capo, ma diverse persone che erano state in diversi contesti raccontavano, raccontano esperienze fatte in diverse situazioni. Più che portare a situazioni assemblari dove però non si riparte da zero, ma si portano le esperienze e si portano a scambio le esperienze, cioè sono assemblee nelle quali si portano a scambio esperienze diverse di riflessioni in diversi contesti, che quindi non portano a sintesi, ma ricreano un altro contesto di crescita in qualche modo. Più di questo non è possibile, ma sono possibili anche scritti che in qualche modo cercano di trovare una modalità che mantenga la ricchezza e l'articolazione di ciò che è stato detto in presenza. Naturalmente questo è un lavoro difficilissimo, perché la scrittura per il suo si appoggia su codici che sono altri dal parlare in presenza. E quindi avere la capacità di scrivere stando non descrittivi ma fedeli all'elemento qualitativo che è emerso in una situazione di pensiero in presenza richiede una grandissima arte che invece in genere nella scrittura noi non abbiamo. Quindi diciamo che la questione che tu sollevi, tra l'altro è stata sollevata anche dagli studenti a Verona, quelli del movimento degli studenti dell'Onda, perché mi hanno fatto lo stesso tipo di obiezione e la risposta è la stessa, nel senso che è chiaro che si ha bisogno di dire che cosa è successo a Verona agli studenti di Roma 3, che so che tra l'altro appunto questi ce lo sono collegati con me. Però allo stesso tempo non è possibile rifare tutta l'esperienza di quello, c'è una perdita e d'altra parte c'è necessità di comunicazione, come degli elementi di perdita ci sono per forza. E il fatto di sapere che elementi di perdita ci sono sta nell'ordine delle cose, cioè non possiamo non sapere che la ricchezza che c'è in presenza va aperta nel momento in cui si va ad uno scambio fuori contesto. D'altra parte, lo scambio fuori contesto c'è necessario per altri motivi, ma che ricrea altri momenti di presenza, altri tipi di situazioni, di una situazione a catena, diciamo, situazione a catena che c'è l'elemento forte del simbolico che noi non possiamo tenere tutto con noi, alcuni elementi vanno persi. Questo è l'elemento che però ci permette di rilanciare ad altri livelli. Noi sappiamo che l'intensità del sapere in presenza viene perso nel momento dello scritto, viene perso nel momento della comunicazione in altri contesti, d'altra parte vogliamo delle altre cose, cioè è un grande problema dei movimenti questo, e d'altra parte quei momenti di incontro sono assolutamente necessari, altrimenti ognuno rimane nel proprio piccolo e c'è un impoverimento. Lo scambio però non porta con sé tutta la ricchezza, occorre perdere qualche cosa, non si può portare con sé tutto com'è. L'altra questione io l'ho capito un pochino da come la riduceva Federica, cioè nella circolarità, infatti io visto che nel vostro documento avete adoperato circolarità, per questo mi sono fermata su questo, perché da una parte è vero che nel pensare in presenza c'è un movimento circolare, è proprio così, dall'altra parte però appunto io ho cercato di aggiustare il tiro, perché ho detto ma tenete conto che nel movimento circolare ci sono però delle persone trainanti che non sempre sono le stesse. Nel caso di Callalonzi è chiaro che c'era una grandissima differenza di qualità tra Callalonzi e altre, però in tantissime riunioni in cui noi siamo, in contesti in cui noi siamo, a volte ci sono delle persone che trainano un giorno, a volte delle persone che trainano un altro, non sempre sono le stesse. Il sapere di una pratica e l'esercizio di una pratica, che è anche una disciplina di una pratica, significa riconoscere quando in quella giornata anche di Kairos, se vuoi, di grazia, ma anche di pesantezza, di difficoltà, perché chi trae in qualche modo ha un elemento qualitativo quel giorno, ma anche di pesantezza, diciamo, quindi va aiutata. Sapere a seconda dei giorni se un giorno si sa che si è quella persona che sta trainando, di assumersi questo ruolo perché va bene, proprio questo ruolo. E se non si è quel giorno quella persona, di aiutare chi sta trainando, perché c'è un orientamento verso una qualità della riunione che in qualche modo va aiutata, non va da sé, una pratica significa che in qualche modo occorre fare attenzione perché la pratica viene meglio con la giornata. Lei prima aveva indicato nella fiducia e anche nell'antagonismo, diciamo, del tessuto collettivo tra i partecipanti a un ballaggio di presenza. Però così pure non avrebbe aggiunto anche la volontà, cioè sia come volontà di mettersi in questione, volontà di accogliere il pensiero dell'altro, volontà di un obiettivo comune, ma anche come volontà di prevaricare, volontà di buttare la discussione verso un punto. Cioè, nei altrimenti, quanto conta la volontà della partecipazione a un ballare comune? Sì. Beh, prima giusto un pochino rispetto alla prima parte che ho detto, cioè io ho parlato appunto dell'accettare l'aggressività e l'antagonismo come un elemento che è centrale e creativo, ma che non è sullo stesso piano della fiducia. Cioè la fiducia in qualche modo permette che l'antagonismo e l'aggressività, anche la pura aggressività, siano creativi. Cioè non siano distruttivi all'interno di una riunione. Si sublimano in un certo senso. Si sublimano una parola che... che sminuisce la forza dell'antagonismo, in qualche modo la trasformi in altro, no? Nel senso che la trasformi in qualcosa di altro. Invece lasciare l'antagonismo, però la fiducia permette che l'antagonismo sia accolto non come... ma che porta, perché appunto io ho visto in certe riunioni alcune persone fortemente aggressive è perché ci tengono sul serio, perché stanno dicendo, ci tengono talmente tanto che diventano aggressive, come perché in quel momento sentono una stretta, sentono che quella cosa va detta con forza, com'è. E quindi se tu hai fiducia in quella persona gli lasci tutto lo spazio alla sua aggressività. Quindi in qualche modo la fiducia non è sullo stesso livello, permette di lasciare all'aggressività di quella persona in quel momento, all'antagonismo, di essere, di mantenere tutta la sua forza senza sentirlo come distruttore, perché in genere ci si impatta sul fatto che una persona aggressiva sembra distruttiva, a volte non lo è, a volte è proprio che ci tiene tantissimo quello che sta dicendo. Per cui non metterei fiducia e antagonismo sullo stesso piano in questo senso. La seconda domanda, la seconda questione, io la sento come una grossa questione, almeno per me personalmente, perché perché a volte c'è la volontà di mettersi in questione, eccetera, la volontà di certo che dipende anche dalla volontà questo, no? Ma anche da un desiderio di mettersi in questione. E anche c'è però l'altro lato che non è volontaristico, che dicevo prima, del sentirti a disagio perché le cose non ritornano. Questo è un lato, però c'è anche la volontà di mettersi in questione. Cioè il lato che ho detto io è più passivo, c'è una situazione di disagio, di difficoltà e bisogno degli altri, di discutere con gli altri. E poi c'è il lato attivo, c'è la volontà di mettersi in questione, eccetera. C'è anche la volontà, tu dicevi, di prevaricare, no? Come non lo so, penso a partire da me, questo portando io sento che in alcune discussioni ho la volontà di prevaricare. uno si arrabbia, ma tu prevarichi su qualcun altro, le persone reagiscono, e quel tipo di situazione che portano in qualche modo può portare ad andare avanti nella discussione di una. Quindi dipende molto dalle situazioni, dai contesti, quando la volontà di prevaricare è qualcosa che veramente interrompe, o quando hai una volontà di prevaricare per rilanciare. Lo senti orecchio questo come. Cioè, l'idea è se il desiderio di pensare assieme, il desiderio di fare filosofia, il desiderio di trovare una via politica assieme, accomuna veramente le persone che sono lì, allora la volontà di prevaricare può essere un modo per smuovere le persone che sono lì, non ti stanno dicendo niente, tu hai bisogno degli altri, hai bisogno anche di qualche cosa, e tu in qualche modo li costringi facendoli arrabbiare, la gente dice qualche cosa, o se ne va. Però diciamo che senza un elemento di volontà non ci può essere un parlare in presenza come parlare in comune tra le persone. Allora questo va. Sì, ma c'è sempre una singolarità in gioco, c'è sempre più come singolarità in gioco, non è un parlare in comune che avvertisce tutto il discorso in una comune. Cioè se tu ci chiedi che gli altri, perché tu sei andato lì per sentire gli altri, se per esempio gli altri stanno in silenzio in un certo momento, ti arrabbi e in qualche modo provochi le persone, prevarichi sugli altri, perché per provocarli di ritrovare il loro punto debole, non so come dire, farli arrabbiare. Però hai bisogno che gli altri parlino, perché gli altri per cui sei andato lì per discutere. Non c'è un comune circolare omogeneo, c'è un desiderio che ti porta lì perché hai bisogno degli altri. Cioè, altrimenti si può ragionare per conto proprio a casa propria. Cioè, stiamo parlando della discussione e un desiderio di discutere assieme. Tu sei andato lì per quello. Se ci sono situazioni che non stanno andando come tu vorresti, in qualche modo può succedere che prevarichi per provocare una situazione, perché c'è un tuo desiderio in questo. E poi naturalmente gli altri sono liberi di reagire come vogliono, perché in realtà se sono lì vuol dire che in qualche modo ti considerano affidabile. C'è una fiducia di fondo. Dall'altra parte stimolare diciamo, la persona che tu cerchi, con cui tu cerchi di intervenire. Sì, no, certo. Sì, ma in realtà ci sono dei momenti in cui, per esempio, voi vi siete messi assieme a partire dal momento dell'osla. C'è stato un desiderio che è nato da una reazione a ciò che veniva all'interno dell'università, è un desiderio di cercarsi per discutere assieme. Cioè, per esempio, io ho visto che tante situazioni sono nate per un desiderio politico, che poi è diventato ragionare assieme pensiero, ma un desiderio che nasceva da una necessità politica di trovare una posizione rispetto a qualche cosa, da una mancanza di. Da un disagio, da una sofferenza, per cui ti trovi perché c'è un elemento di reazione a una situazione che in qualche modo non sta andando come vorresti. La reazione di reazione negativa poi in realtà apre spazi altri e di libertà, vuol dire è un pochino quello che anche avete scritto sul vostro documento, nel senso che nel documento è stato scritto, ma l'ho visto anche a Verona e l'ho visto in tantissime altre situazioni, le situazioni nascono come situazioni contro o per opposizione, poi in realtà il trovarsi assieme fa nascere degli altri desideri che sono il desiderio di pensare assieme, di ragionare, di andare a fondo su certe situazioni e poi però occorre anche sapere che delle situazioni terminano. Non è un dramma se le situazioni terminano, altre ne possono nascere, cioè questo no. Mi sembra che dietro la tua domanda ci sia un po' anche la preoccupazione di mantenimento di una situazione. No, è più un'interrogazione, sì. Cioè magari anche la carta volta per noi è stata affrontata questa cosa della partecipazione a quello che cerchiamo di fare assieme, insomma, se di quanto può essere coinvolgente o comune quello che lo spazio di riflessione. bene, una singolare, il desiderio è sempre singolare, nasce da una reazione, però poi tu dopo non ci mette per venire a andare alle situazioni, nasce anche proprio da una singolarità. La singolarità poi fa un tessuto comune, c'è un discorso che è un discorso comune, ma la singolarità è sempre una singolarità, non c'è un appiattimento di questo, non so. Sì, anche la diciamo. Detto in termini molto prosaici, esclude il proselitismo, no? Sì, io di mio tendo sempre a persuadere anche quelli che non sono. Cioè, io so che di mio un pochino proselitismo nel senso che se io trovo che questo momento politico è molto vitale e lo sento come vitale, cerco coinvolgere anche chi in qualche modo non si è mosso. Perché a volte non si è mosso perché non ha ancora trovato qualcuno che lo sta portando da qualche parte. Forse aspettava, lo dico anche così in modo un po' ingenuo, perché aspettava che qualcuno la trascinasse ad una riunione, ad una situazione, forse aveva proprio quel desiderio, però non aveva trovato qualcuno che in qualche modo lo trascinasse in un contesto che non conosce. L'evento di più sale, diceva prima. La sala di evento di più sale, diceva prima. Devi parlare più facile, se vuoi, l'elemento di fiducia. L'elemento di fiducia, sì. Sì, ma non so, per esempio, all'università c'è questo seminario politico che facciamo in gennaio, febbraio, non ci sono lezioni. Io invito sempre delle studentesse, degli studenti che non conoscono lo spazio, perché magari se vengono una volta e lo conoscono, dico che c'è, e poi non vengono più se non gli piace, però perché non fargli sperimentare una situazione che magari, perché non ne sanno, cioè c'è ma non ne sanno. Dopo nasce un desiderio, cioè in qualche modo è il rapporto al loro desiderio di stare o non di stare. Ti propongo questo, no, perché so che appunto pensare in termini di desiderio porta a questa sorta di, sì. No, che la partecipazione è un movimento endogeno, altrimenti non c'è, no? Che sembra quasi le macchine uccelli, quindi sì, è un problema. Sì, sì. E allora mi stavo chiedendo se ci sono i momenti di pieno, cioè se si può pensare su scala diversa, delle pratiche diverse, ci sono momenti pienamente politici, come è stato questo, questo anche per il tempo sulla fine, no? Sì, certo, sì. Momenti di piena dove non c'è bisogno, non so come dire, è l'ambiente in cui si ha bagno, sì, che offre delle vesti o dei momenti per dare corpo a, cioè, a queste spinte, no? Così singolari. Ci sono dei momenti invece di bassa. E allora non so, questo sono dei pensieri anche su, cioè, come faccio io, no? Con la politica, con le relazioni, cioè dei momenti di bassa. Il proselitismo secondo me è una brutta cosa. Non è quello di cui parlare, no? Sì. Però c'è questa cosa volontaristica, vai a prendere queste mani, guarda, che stai per i comuni, ti devi rendere conto, no? C'è un incoraggiamento degli impatti. Allora, stavo pensando se non è il caso di individuare i segnali in che punto di desiderio, a cui tu offri qualcosa che non è. Indicare che ci sono luoghi liberi di pensiero, poi è di farli sperimentare, poi se qualcuno sente che il proprio desiderio in qualche modo li trova la possibilità, poi arricchisce questo percorso, o se no evidentemente il proprio desiderio avrà indicare che ci sono luoghi di questo tipo anche nei momenti di pace, che ci sono luoghi di questo tipo. Se io fossi stata studentessa all'università e qualcuno me l'avesse indicato, io sarei stata grata su questo. Poi dipendeva da me restare o non restare, o creare degli altri, però sapendo che ci sono delle potenzialità di questo tipo. Però il desiderio è sempre singolare, ma è vero che ci sono luoghi che aiutano le situazioni e luoghi invece che in qualche modo chiudono, impediscono una proliferazione di messe in parola di idee e così via. Quindi occorre stare secondo me una dimensione obliqua di libertà del desiderio, allo stesso tempo mostrare le potenzialità che sono quella. Allora, io volevo ricordare un momento a quello che dice riguardo la pratica del darsi a unità, diciamo, all'interno della presenza. Perché, insomma, non ho una domanda ben precisa, però mi stavo domandando come questa cosa può essere un po' percepita oggi. Nel senso, voi siete partite da una condizione in cui tutte quante avevate uno scudo alle spalle, se comunque incarnavate un po' tutte, vi siete dovute liberare. È successo a un certo punto che invece vi ha preso troppo la mano in questa cosa, parlare, che so, diventavo un parlare troppo di sé, quindi la sostanza cedeva, insomma, qualche modo ce lo dicevi già, però così comunque essere di poi oggi, ma insomma esiste, quindi è ovvio che la sostanza ci sia. Però mi domandavo che nella nostra generazione quello che non è sempre vero, però in parte è vero, forse che abbiamo troppo un'opinione, no? E in realtà poi non c'è un sostrato di quello che diciamo che lo può far diventare qualcosa di duraturo. Probabilmente l'immagine, cioè noi possiamo applicare una pratica del genere, ma sappiamo perfettamente che c'è una scatola dentro casa, che si chiama televisione, che dà opinione tutto il giorno, quindi un po' rifugiamo da quella cosa e sta all'equilibrio, insomma, tra non rifugiarsi nei testi, ma neanche andare a finire a fare opinionista, diciamo. No, certo. No, sì, sì, ci sono delle riunioni, a volte di ottima capita, di proprio di ottima, ma anche segnale di quello che si può in realtà, segnale critico fatto da studenti ex studenti che si sono laureati, che ritornano come luogo politico dell'università o di ottima. Ci sono delle riunioni dove si parla e basta, diciamo, dove c'è questo elemento del parlare e parlare e basta. C'è una frase che è molto importante, che è quella di reggere il silenzio. All'interno di questa cosa, reggere il silenzio, per me per esempio è una pratica molto difficile, quella di reggere il silenzio, quando non c'è niente da dire di importante. Questa situazione è molto complicata perché soprattutto le donne, devo dire, da questo punto di vista, tendono a riempire e io sono una donna, quindi conosco bene questo punto di vista, di non reggere il silenzio, per cui vado a riempire con un discorso qualsiasi, pur di non stare in un impasse di silenzio, che in realtà è sempre un impasse che è negativo in quanto impasse, non c'è niente da dire, però che permette di far affiorare degli elementi vitali, diciamo, e non parole, come dicevo, no? Come, ad esempio, nel libro ho lavorato anche proprio sulla ruminatio, cioè su questa pratica del ruminare le parole che si sono sentite bene, senza commentarle subito, senza andare subito a riprendere, svilupparle, articolarle, che facendo filosofia poi diventa una pratica molto facile, perché per trovare delle parole anche sempre come avere l'aggiunta di altre parole su quelle sentite, come avere, per chi fa filosofia, ma è una cosa assolutamente facilissima, continua a ti aprire una strada e vai avanti. Affermarsi a ruminare le parole, cioè a sentirle come elemento che ti trasforma soggettivamente, impedisce quella deriva della parola della parola vuota, diciamo, perché ti porta a sentire in che senso, in che forma e in quale direzione le parole ti portano ad una modificazione. Prima di tutto una forma del corpo inconscio, direi, una forma del corpo inconscio, che le parole di verità hanno la capacità, per tornare alla sua domanda, di toccare il corpo inconscio, non soltanto la dimensione consapevole di te. E le modificazioni del lato inconscio del corpo che le parole di verità portano ha bisogno di luminanza, cioè di tempo, di silenzio, come che magari in contesto non puoi fare, ma che comunque in altri contesti, perché è un contesto di parole la discussione comune, però che in altri contesti, a casa tua, nella tua stanza, per conto tuo, puoi fare come. Questa pratica della luminanza, dell'accettare il silenzio, del non portare tutto a comunicazione, del dare valore ai momenti non comunicativi, come momenti preziosi per cercare elementi di verità nel discorso, rompe l'ideologia della comunicazione, rompe l'ideologia della parola come, e porta a sapere che un discorso di verità è un discorso trasformativo della tua esistenza, non sai come, non sai verso dove, occorre tempo, occorre silenzio, ripete, come per e questa pratica della luminanza, del silenzio, di lasciarsi diventare le parole, sentire che magari alcune riunioni sono state molto importanti, altre no, non è successo niente, ma alcune riunioni sono state molto importanti, ti porti a casa parecchio, le lasci sedimentare, non hai bisogno di commentarle subito così. E che questo non è uno scarto, è proprio invece una pratica che impedisce quella deriva del discorso, del quanto discorso che diventa parola vuota. Questo devo dire che, per esempio, le femministe storiche avevano questo aspetto, cioè avevano molta attenzione a lasciare molto spazio al silenzio. E insegnare a stare in silenzio, non riempire subito di parole di commento, di reggere il silenzio come un elemento fondamentale, che per me personalmente è molto difficile, ma che però in parte ho imparato, in parte no, è sempre difficile, però so che è importante per impedire quelle derive che tu dici. Invece riguardo a te, cioè il rapporto con te, sì, il rapporto con te si è trasformato tantissimo, perché io vi ho raccontato l'inizio della pratica. Inizio la pratica di Gaudi, ma è stata una pregredita, cioè di non citare nessun testo, citare solo quella che avevo appena parlato, ma perché si è creato un senso di autorità, autorevolezza dell'altra persona che sta lavorando con te. Quindi ti ne conti anche della tua, perché nel momento in cui tu riconosci autorità all'altra persona, alla fine è un modo diretto per riconoscere l'autorità anche te, anche se Balbini ti dice delle cose imprecise, però alla fine la tua parola diventa più autorevole di tutto il sapere che abbiamo accumulato. Però è stato proprio allora, senza dircelo, che abbiamo ricominciato a citare, perché a quel punto, ma non è, infatti è una pratica, non è una tecnica, una pratica significa un processo nel quale ci sono due o tre regole, ma essendo un processo in divenire, un movimento, poi quelle regole possono trasformarsi in modo implicito senza che ci sia necessità di dirselo. Posso azzardare un po' a vedere, diciamo, imparando a non farvi troppo assimilare, cioè nel momento in cui eravate libere, esatto, dal testo. Sì, esatto. Potevamo citare i testi perché sentivamo che non erano i testi che citavano. Ci parlavamo, eravamo noi che in qualche momento preciso, ma questo è stato una cosa di anni, però è anche una cosa così. E tra l'altro, secondo me, proprio perché è tipico di una pratica, senza dircelo, a un certo punto uno ha cominciato a citare un testo e l'altro ha detto sì, e così c'è. Non è stato stoppato su questa cosa, ma si è andato avanti perché no, adesso si fa così, no? È un pochino anche la differenza tra play e game in inglese, no? Come, uno è regolato in modo rigido e l'altro invece si fa facendo. Per cui a un certo punto nel far facendosi si è ricominciato ad usare anche i testi perché l'autorità era ormai della circolazione del discorso e non invece del testo. E non c'era appena, come hai detto tu, cosa. E quindi infatti adesso non c'era questo pericolo. Esatto, sì, sì, non c'era questo pericolo. Sfruttare tutta questa pratica possa essere quasi definita la pratica di sapere come bene comune, cioè nel senso trovo di sapere come bene comune, cioè, mi pare che ci sia la dimensione pubblica, no, del sapere che prende un valore forte per procreare il sapere. Quindi mi immagino, non so, se l'insegnamento, no, potesse essere pensato in questo modo, andare a passare a pensare in presenza, insomma, questo apprendimento, no, come si dice, nel persuadere qualcuno, persuadono, sì. Nell'insegnare credo, nell'apprendere l'insegno, no, non so se. Sì, ma nell'insegnamento come pratica, cioè, io tengo tre corsi e l'unico corso in cui riesco a creare una situazione di questo tipo, io ho due corsi di filosofia del linguaggio, la triennale specialistica, la magistrale, e la didattica filosofica magistrale. Allora, nella didattica filosofica magistrale riesco a creare una situazione di questo tipo, nel senso che anche giocando sul fatto che è ermeneutica, io do come lezioni iniziali e poi si prende un testo che tutti, 10 pagine alla volta, devono aver letto e poi io non guido la discussione, però la discussione sul testo è fatta da tutti quanti e quindi cominciano anche a discutere tra di loro e così. Ed è molto interessante sia per me che per le studentesse e gli studenti perché vengono le menti, lo dicono poi le studentesse e gli studenti, che loro a casa non si erano assolutamente aspettati di cogliere il testo, loro hanno portato un certo tipo di lettura, un altro portato un altro tipo di lettura e lei si capisce la lettura dell'altro. C'è un arricchimento di lettura del testo che è amplissima, ricchissima e che chi se l'ha preparata a casa con le 10 pagine non si aspettava per nulla. Quindi c'è un sapere che viene dalla circolazione della discussione che è molto molto ricco, dove in realtà io proprio non dico niente, perché non solo in alcuni momenti aggiungo alcune cose, ma la grande lavoro di lettura lo fanno loro. E in questo senso è proprio il tipo di dimensione che stai descrivendo con me. Io posso stare qua fino alle 5:10. Poi magari riusciamo a salutare. Beh, che insomma ci sentiamo. Vabbè. Ah, sì, no, ma faccio nell'andro. Un po' largo così. Ciao. Ecco, questo tipo di è la pratica in cui ho cercato di fare gli occhi, non ci stavo nel seminario politico di un corso. Ma non sempre è possibile, perché non, per esempio le studentesse e gli studenti si lamentano che allora la cosa brutta di cui si lamentano è che tutto il tempo stanno, tutta la settimana stanno su quella questione, cioè il corso li ha coinvolti tantissimo e non riescono più a studiare per gli altri esami, cioè non riescono più tantissimo a quelle. E un po' anche il fatto che bisogna anche cercare dei testi che sono un po' difficili, perché se è un testo molto facile le persone non hanno niente da dire, cioè non c'è una grosse difficoltà tra alcuni studenti e altri, perché alcuni hanno problemi di intervenire e non hanno problemi di intervenire nei confronti del docente, perché gli studenti sono sempre abituati ad intervenire di fronte al docente. Paradossalmente hanno problemi di intervenire nei confronti dei compagni e delle compagne. Il blocco che mi dico è che non si vergognano di esporsi, di azzardare di fronte al docente, perché ad esame succede così, ma di fare brutta figura con i compagni. Questa è una questione di questo tipo di corsi, per cui alcuni per me hanno delle difficoltà, anzi alcuni non sono proprio più venuti perché si vergognano nel confronto. Certo che poi c'è una disparità tra la gente di più o che lavora di più o che ha più facilità di andare. Fare pensiero in questo modo significa esposizione di sé, con tutti i propri pregi, è una forma non di disvelamento, ma comunque di esposizione. E questo fa difficoltà agli studenti rispetto agli altri studenti, non rispetto al docente, non c'è detto rispetto al docente, ma sì che il problema è rispetto agli studenti, e rispetto agli altri studenti. Però è un buon esperimento, perché penso che sulla questione della verità, diciamo, come rispondenza, cioè io sento che qualcuno sta dicendo una parola di vita quando sento che risponde a qualcosa, a un mio desiderio, ma questa è una cosa che trovo molto nella mia esperienza, però voglio dire una cosa, ma cioè, questo desiderio, appunto sentiamo, cioè, il desiderio che sentiamo rispondendo a tutte le parole, è un desiderio che può essere considerato genuino o ci so, cioè, si può intervenire per modificare quel desiderio e quindi poi insomma, far circolare anche verità che in realtà sono rispondenti a un desiderio, che è un desiderio modificato, per esempio, non so, penso a riunioni anche in presenza, quindi circoli, non so, della Lega, perché in cui magari non so, si riesce a creare consenso attorno a un enunciato anche politico, tipo non so, gli extracomunitari rubano o qualcosa del genere, che quella cosa possiamo considerare la verità oppure no, nel caso come ci si, cioè come ci si, diciamo, come ci si accorge se un desiderio è per dire più genuino, se esiste un desiderio genuino e invece quando non lo è. Ma la tua domanda ci sono due cose, verità e desiderio. C'è il desiderio di verità, ma la verità non è desiderio, cioè la verità è quando c'è una rispondenza tra le parole e io direi linguaggio d'essere più che linguaggio realtà, perché la realtà è proprio fatta dai fatti, come dire, c'è una rispondenza tra le parole e il movimento dell'essere, come so che è molto ontologico, metafisico, però la parola realtà è troppo legata alla dimensione dei fatti, è stato più nel fatto che gli extracomunitari rubano o non rubano, verità di fatto, verificazione e falsificazione, tutta la filosofia della scienza lavora su questo aspetto, o appunto degli enunciati sono veri, sono falsi, perché c'è corrispondenza con i fatti. Allora, per quello che io non uso tanto senso questa corrispondenza enunciato fatti, no? Come dire, per cui l'enunciato è vero perché corrisponde a quei fatti lì, com'è. Ma verità come che nel momento in cui hai capito qualcosa, questo mette in movimento una trasformazione. Cioè, questo poi diciamo che apre un movimento del desiderio. È un po' l'opposto, cioè chiaro che abbiamo un desiderio di verità, però quando succede che viene detto qualcosa di vero, per esempio appunto quello che dicevo, la realtà per esistere ha bisogno di essere nutrita, io capisco qualcosa che mi mette in movimento il desiderio, cioè mi apre una strada. forte nel mondo, in realtà è un elemento discontinuo che mette in movimento un modo di esistere, un modo di guardare, un modo di fare politica, una via politica. Per esempio, la frase di Pasolini che considero vera, che dicevo prima, prima diciamo le cose che ci stanno a cuore, diciamo quelle cose vere che ci stanno a cuore, diciamole, dopo ci portiamo nel potere, è un elemento discontinuo rispetto al sentirsi troppo costretti dai dispositivi di potere che ci sono, non è che non ci sono, però che in qualche modo ci incagliano, e apre una strada, diciamo, sì certo c'è il potere, ma prima muoviamoci secondo l'elemento di orientamento che ci sta a cuore, dopo ci occupiamo della questione di come entrare in conflitto con il potere e privilegiare il conflitto con il potere. Questo è un discorso di verità che apre a un movimento del desiderio. Io ho capito delle cose che mettono in movimento il mio desiderio di andare in una certa direzione. Diciamo che proprio la verità non è corrispondenza con i fatti, ma è un taglio che ti apre ad un movimento, ad una trasformazione. In questo senso, l'annunciato della Lega rispetto a Italia e Roma, no? Poi è vero che si rubano anche nel senso. Oppure anche noi abbiamo, cioè voglio dire, è meglio non metterci su questo elemento vero o falso, perché in qualche modo siamo sempre perdenti, non è che lo diciamo non rubano, non rubano, e stiamo lì a discutere su questo. Ci interessano quegli elementi di verità che sono discontinui e che portano a una modificazione, che portano a una trasformazione politica. Per questo per esempio sto cercando delle parole per dire qualche cosa di vero che vada oltre la verità globale e locale. Non è che il globale e locale non sia vero, è vero, però in qualche modo non porta a nessuna modificazione, è bloccato, diciamo, porta lì sui fatti, per cui i fatti tutti continuano a modificare, che c'è globale, locale, e non succede niente. Guarda le parole di verità che invece aprono un movimento, e in questo senso appunto rovescerei quello che tu hai detto, è la verità che mette in movimento desiderio, non l'opposto. Che cosa mi vuoi dire? Sì, no, ma solo, cioè, allora se non ho capito bene, insomma, quando uno dice la parola verità non si capisce perché risponde a qualcosa, risponde a qualcosa. Però dico, questa rispondenza, cioè proprio un sentimento, cioè uno sente, e questo sentimento è qualcosa di genuino, diciamo, che non so, risiede in qualche posto che non è accessibile, per esempio, alla dinamica di potere, che può essere influenzato anche dal potere, per esempio credo il mio vicino di casa che ha fatto una petizione, per cacciare per far sgombrare il campamento di Roma, quindi quello cos'è? È un qualcosa di genuino che lui poi ha anche indotto una trasformazione nel nostro paese, purtroppo sono stati in questo mondo. Però quel desiderio che lui aveva di cacciare era stato a sua volta indotto da altri discorsi di potere, magari io non lo so. No, però un pochino ti ho già risposto a questa tua questione, che è quella che qualsiasi enunciato di verità è un enunciato rispetto al quale avere sospetto, perché noi abbiamo una posizione di sospetto nel confronto del potere, che pensiamo ogni pervasivo, per cui qualsiasi tipo di situazione è una situazione inficiata inizialmente dal dispositivo di potere. Per questo che sto insistendo molto su una frase di Pasolini, perché so che questa posizione è una posizione che io ritrovo tantissimo anche nelle studentesse e negli studenti con cui io lavoro, è una posizione che direi che viene preparato, più chiaro